E eccoci in diretta questo venerdì 17 di un anno bisestile. E bentornati tutti in diretta con Radio Lotto tutto l'anno, la radio di Non Una di Meno. E oggi in diretta siamo Arianna, Carlotta e Fede. Stavi dimenticandoti il tuo nome, Fede? Ho avuto un momento di defiance. Subito recuperato. Okay. Partiamo come dovreste ormai sapere, fidati ascoltatrici e ascoltatori, con ricordarvi che questa è una radio che cerca di essere il più partecipata possibile, che quindi vi ricorda che potete mandare i vostri contributi, le vostre suggerimenti e quindi iniziamo condividendo i nostri contatti e poi vi raccontiamo di cosa vogliamo parlare oggi, va bene? Sì, perfetto. Allora, i primi contatti, potete utilizzare la mail nonunadimenomilano@gmail.com. Esiste anche un blog nonunadimenomilanoblog.wordpress.com. Per le più social c'è la pagina Facebook di Non Una di Milano, Instagram, Twitter e il canale Telegram. Top. E visto che sappiamo che la casa e le relazioni non sono sempre spazi sicuri, vi diamo anche qualche altro contatto di direcontralaviolenza.it, ma anche il numero di telefono della Casa delle Donne Maltrattate di Milano, che è lo 02 55 01 55 19, e il numero nazionale, che è il 1522. E poi, poiché sappiamo anche che anche in questo momento in cui, insomma, raggiungere gli ospedali e le farmacie non è proprio semplice e no, quindi un sacco di servizi sono sospesi, tra cui quelli che riguardano l'interruzione volontaria di gravidanza, per avere delle informazioni su questo e anche per continuare a segnalare eventuali forme di discriminazione e abuso, ma anche eventuali invece esperienze positive, Obiezione Respinta ha aperto un canale Telegram, SOS Aborto Covid-19, ma potete sempre raggiungere Obiezione Respinta anche sui suoi canali social, quindi su Facebook e su Instagram. Su Facebook trovate anche la pagina IVG Aborto. E sto benissimo. E infine, Obiezione Respinta ha attivato un numero di telefono che può aiutarvi in questo momento, attivo 24 ore nel caso doveste avere delle emergenze, che è 331 96 34 889. Benissimo, allora abbiamo iniziato oggi balbucchiando su Angel Olsen, Shut Up and Kiss Me, per chi avesse voglia di ricercarsela e di riascoltarsela. E per quando potremo togliere le mascherine? Esattamente, e per i baci che ci lanciamo da lontano nel frattempo. E forse siamo pronte a introdurre il tema della puntata di questa sera. Di cosa parliamo questa sera? Intanto possiamo dire che avremo un atteggiamento un po' random e un po' punk. Sì, perché comunque parliamo di cultura e a noi piace la cultura punk. E ci chiediamo cosa sta succedendo nel mondo della cultura e dello spettacolo in queste settimane. Ce lo chiediamo in senso un po' ampio, provando a indagare sia la questione della produzione di cultura, sia la questione del consumo, e lo facciamo attraverso le voci e i racconti di chi lo abita in modi diversi. Avremo tantissimi ospiti, oggi. Sì, anche perché ne nessuna di noi tre lavora specificatamente in questo campo. Diciamo che quello che faremo noi interrogandoci insieme a chi lavora è magari interrogarci dalla nostra parte, quindi dalla parte del pubblico, che cosa sta succedendo a noi e come sono i consumi. E quindi ascoltare le voci di chi è dentro il mondo della produzione culturale ci aiuterà anche a capire un po' noi come non farci fagocitare magari da spazi mainstream come Netflix, ma orientare i nostri comportamenti in modo che possano supportare la cultura indipendente dal basso. Esattamente. E forse è il momento di parlare di uno dei nostri punti di diamanti della trasmissione. Ci vorrebbe la musichetta, le rubriche. Wow! Rubriche sì, sono il momento, come dire, che dovrebbe essere più alto della nostra trasmissione. Diciamo che vivremo, se c'è, cioè, ognuno la performatività come vuole, no alle pressioni, ma ci piacerebbe foste più attivi in questa parte. Comunque abbiamo due grandi rubriche che ci seguono dall'inizio, che sono la posta del cuore, se avete così portare avanti le relazioni sentimentali o sessuali, non ne parliamo, in questa quarantena non è semplice, sia per chi ce le ha lì sotto mano e ci vive in casa, sia per chi si trova invece a vivere da solo o da sola. Quindi se avete bisogno di consigli sul vostro cuore, noi siamo qui a darvi dei consigli sbagliati. E l'altra rubrica che portiamo avanti dal principio è dedicami una canzone o dedica una canzone, perché appunto possiate mandare nell'etere le vostre dediche. E infine, più recente ma non meno eccitante, raccontateci i vostri sogni. E se la posta del cuore ci latita un po', come ci arrivano un po' pochi contributi, non Forse capisco non perché sembriamo in questo abbastanza momento, convincenti come consigliere. forse proporci come consigli sbagliati non è l'indicazione giusta. Il ti dedico una canzone, oggi ha avuto una bellissima risposta. E se siete d'accordo, possiamo condividere la dedica che abbiamo ricevuto da leggere e andiamo. Allora, Sì. la dedica è The Organ, Memorize the City, e E chi la manda dice: la dedico a tutte le amiche a Milano e a Bergamo, città del mio cuore, che spero di rivedere presto. La firma è Marina, detta Mina, in quarantena a Varese, nuova ascoltatrice e seguace di Radio Lotto tutto l'anno. E direi che un Bello bacio avere grande seguaci. anche a Ma lei. grazie, Mina. Ed eccoci di nuovo in diretta, bentornate e bentornati, un po' emozionate dopo questa dedica. E speriamo Grazie che Mina. i desideri di Mina si avverino presto. Ma tra poco, se non erro, abbiamo un contributo di Mauro, che è, oltre ad essere un nostro amico, è una voce maschile all'interno della radio di Mina, vero? Per un attimo ho pensato che tu stessi per dire oltre che essere gnocco. Ah, è anche gnocco, Mauro, è vero, L'ho pensato possiamo dirlo. anche io. È gnocco, è maschio e ci ha mandato un audio in cui ci racconta un po' come vivere il lavoro culturale in questo momento. Mauro ha una libreria indipendente che secondo me molte persone all'ascolto conosceranno, che è la libreria Antigone. È una libreria LGBT specializzata in studi di genere, femminismi, arte e teoria queer, quindi diciamo che è in perfetto ambito Radio Lotto tutto l'anno. Perfettamente, ascoltiamo Mauro. Ciao a tutti e a tutte, sono Mauro della Libreria Antigone di Milano e del collettivo di Asterisco Edizioni. Ma la mia riflessione sulla situazione attuale per quanto concerne l'editoria e le librerie indipendenti parte dalle parole di Conte di qualche giorno fa, quando nel suo discorso pubblico, a seguito del nuovo decreto che il governo appunto ha prodotto, Conte si è soffermato sulle librerie, e ne ha parlato in qualche modo come una riapertura simbolica per il nostro paese. Ecco, intorno a quella parola simbolo credo che ci sia molto. C'è la storia degli ultimi anni di questo paese in cui tutto è stato fatto tranne che aiutare davvero le librerie e l'editoria, e la produzione culturale in generale. Ed è una visione completamente distante da quello che è davvero il nostro lavoro, il nostro ruolo. Non siamo simboli. Il simbolo è qualcosa, se ci pensate, che nella storia, nelle culture, nelle religioni, nei discorsi dominanti è stato utilizzato per annullare il simbolo. Pensiamo al simbolo della Madonna nella religione cattolica. È il miglior modo per annullare il ruolo della donna. Ecco, le librerie e l'editoria indipendente non sono simboli, è troppo facile sarebbe questa cosa. Non sono luoghi in cui si vende un oggetto e basta. È una visione, non è una visione sbagliata dell'editoria, è la visione che qualcuno ha dell'editoria e della cultura. Ecco, non credo sia la nostra, non credo sia quella, non credo sia una visione che potrà davvero valorizzare e salvare questo settore che oggi è totalmente in crisi e dovrà affrontare delle sfide enormi. La libreria non è un luogo in cui si vende un oggetto. La libreria, l'editoria, ma penso in maniera anche più generale, alla produzione culturale e artistica, sono luoghi di costruzione di socialità, sono luoghi di costruzione di ragionamenti collettivi, sono luoghi anche di silenzio in cui con una cura collettiva c'è uno scambio tra soggetti che magari non si conoscono, non si sono mai visti, ma che intorno a quel fatto, intorno a quel libro, intorno a quella rappresentazione teatrale si fermano e riflettono. Ecco, questo non deve, non dobbiamo dimenticarlo, e questo dobbiamo continuare a farlo in qualche modo. È importante oggi sostenerle le librerie indipendenti, assolutamente. Non è il momento di dire iniziamo a boicottare questo o quell'altro, no, è il momento in cui si sostengono le librerie indipendenti, in qualsiasi modo. Ci sono librerie in tutto il paese che fanno le consegne a domicilio, che fanno le vendite online. Ecco, quello è il miglior modo per non far scomparire tutti i luoghi di resistenza collettiva e di produzione collettiva. Di sapere, di circolazione anche di pensieri che altrimenti abbiamo visto, se dobbiamo delegare in qualche modo al governo la sopravvivenza delle nostre attività, e allora sì, continueremo a parlare di simboli. Ecco, peccato che quei simboli non mangiamo e quei simboli non creiamo cultura. È la solidarietà tra tutti e tra tutte noi, e soprattutto è l'aiuto reciproco tra tutti e tutte noi che ci potrà in qualche modo salvare. E eccoci tornate in diretta con le parole di Mauro, Ringraziamo innanzitutto. che ringraziamo tantissimo, che ha raccolto un sacco dei nostri stimoli, non solo sul darci un po' un modo di inquadrare anche l'uso strumentale che è stato fatto delle librerie nelle ultime settimane, ma ci ha anche un po' aiutato a capire cosa noi possiamo fare, appunto come dicevamo prima, invitandoci a supportare le librerie indipendenti che stanno continuando a lavorare nei modi che ritengono opportuni in questo periodo. Sì, e anche ricordandoci appunto in qualche modo che vi è una continuità, no? Tra come si vedono le librerie prima della quarantena e come si vedono durante, dei problemi strutturali che pervadono questo mondo. Decisamente. E, potremmo proseguire le narrazioni che abbiamo raccolto con un altro contributo che ci permette anche di avere uno sguardo che va un pochino fuori dall'Italia e anche di guardare cosa succede in scene diverse. Se abbiamo parlato un pochino dell'editoria, ora entriamo nel mondo della, performance live e ascoltiamo altre voci che abbiamo raccolto. Siete d'accordo? D'accordissimo. Sì. Ciao a tutte, io sono Sara Parolin e mi occupo di produzione per lo spettacolo dal vivo e lavoro in particolare con Kate McIntosh, che è una performance maker. Siamo basate a Bruxelles, ma in questo momento stiamo vivendo a Berlino. Questa situazione ci ha influenzato innanzitutto tramite cancellazioni. Siamo parte di un collettivo che si chiama Spin, con base a Bruxelles. E alcuni degli artisti parte del nostro collettivo hanno subito cancellazione della tournée, ma noi in particolare siamo state molto fortunate perché non siamo in un momento di creazione e quindi siamo a Berlino cercando di lavorare in studio a un nuovo progetto. Riguardo alle cancellazioni, alcune delle istituzioni coinvolte hanno pagato i cachet, alcune non hanno pagato i cachet e collettivamente stiamo cercando di capire come sopperire a questa situazione. Riguardo al presente, il nostro presente è che siamo a Berlino e Kate è in studio. E Kate, how is the studio work going? It's going okay, but we are only a few from our team because it's an international team from all over Europe and the borders are closed, so most people could not travel to come and work together. But the main point is that we make a live show, which will be for a live audience. So we have to look for a future when people can gather together. Strangers can come together, think together, and be in a theatre together, which is the whole point of what I make. We don't know when this will be possible again. Appunto, discutevamo poco fa di come diverse istituzioni hanno risposto in modo diverso a questa crisi. L'istituzione che ci sta più vicina e che è più vicina al nostro settore è il Kunstfestival des Arts, appunto di Bruxelles, che ha ieri cancellato il proprio programma doveva succedere a maggio. E volevamo leggervi un paragrafo della lettera di cancellazione che troviamo sia molto interessante. While being deeply rooted and engaged in Brussels, the Kunstfestival des Arts has always transcended any opposition between the international and the local. However, an international festival is linked with international mobility, something impossible at the moment and uncertain in the near future. We want to highlight the significance of an international festival during the period in which we are now living. We can observe how this emergency situation has been instrumentalized by governments and political leaders in a spirit of isolationism and nationalism throughout Europe and other parts of the world. Above all, the role of an international festival is, and will become even more so, to preserve international exchange and the diversity of artistic expression, to bring to our city a plurality of visions from different regions of the world and help us navigate its complexity. Vi lasciamo con questa. Grazie mille per l'invito. Baci a tutte. Okay, say goodbye. Ciao. Ciao. So you can see how long. E grazie davvero a Sara e Kate che introducono anche delle altre questioni che riguardano da un lato appunto alcuni degli elementi costituenti di chi lavora nell'arte in uno spettacolo, ma non solo, che è la mobilità, che ovviamente è una delle prime cose su cui ha effetto la situazione che stiamo vivendo, ma anche rispetto alla mobilità nazionale e internazionale, l'uso strumentale dei confini che vengono poi caricati anche di un significato simbolico. Cito Valentina Greco, che più volte ha sottolineato questa cosa in chiacchierate informali, ci siamo rese conto anche dei confini regionali e del potere di confini che prima non vedevamo, che sono caricati di un forte significato. Sì, soprattutto, come dire, a me questa cosa fa particolarmente impressione, oltre che appunto nelle regioni, anche all'interno dell'Europa, che ci eravamo abituate in qualche modo per noi europei dotati di passaporto a considerare uno spazio molto facilmente attraversabile e che appunto ha dato vita a gruppi come quello di Kate e Sara, che accolgono persone da parti diverse dell'Europa e non solo, invece poi ecco, non è così, diciamo. No, infatti grazie mille per il contributo che ci permette di aggiungere dei pezzi e Anticipiamo che ci piacerebbe raccogliere degli altri contributi anche che arrivano da altri contesti, non solo italiani, per magari parlarne in prossime puntate. E ora potremmo passare a un altro contributo audio, un'altra narrazione, un altro racconto, ve lo facciamo ascoltare, poi ne parliamo assieme. È Carolina del Circolo Gagarin. Circolo Arci Gagarin ha chiuso immediatamente dopo la chiusura delle scuole in Lombardia, insomma Milano e Varesotto. Lo ha fatto il 24 di febbraio, rinunciando quindi ai suoi 6 giorni di apertura. Ci siamo tutelati immediatamente per quanto riguardava i bandi aperti, perché avevamo un bando che si sarebbe proprio svolto in questi mesi e di cui avevamo già ricevuto il budget, quindi per ora il budget è congelato e stiamo capendo che cosa succederà e quando potremo lavorare insomma con questo budget, anche perché noi non siamo i capofila, siamo partner. Lo stesso vale per un altro bando di fondazione del Varesotto, per cui aspettiamo una piccola somma per un progetto di musica. Quindi anche lì si capirà se questa cosa già in autunno potrà essere fatta o no. C'è stata poi la parte dei lavoratori da tutelare, perché noi abbiamo 2 collaboratori e un assunto. E chiaramente abbiamo messo in cassa integrazione il barista e chiesto, insomma, e i 2 collaboratori si sono, uno ha scelto di non essere pagato a febbraio e l'altro purtroppo non lavora in questo momento, quindi sul partita IVA è molto molto complicato. Detto ciò, le attività sono andate avanti, inizialmente yoga, pugilato, diciamo via streaming, è andato avanti il Cine Underground, che era una rassegna di B-movie la domenica sera, e ci siamo mossi per fare una newsletter di servizio, un collettore di enti culturali e associativi e insomma che si sono formati sul territorio di Busto e dintorni per far fronte all'emergenza. E poi abbiamo fatto un crowdfunding che ha chiesto la collaborazione di altre realtà artistiche come Desert, che fa il laboratorio di stampa serigrafica, in modo da provare a proporre dei gadget che fossero però in cordata, che non fossero qualcosa di nostro comprato e basta. E hanno collaborato a questo anche degli illustratori che ci hanno regalato i disegni che saranno poi messi accanto ai regali. E basta, al momento stiamo progettando il futuro, quindi stiamo capendo che cosa saremo quando riapriremo, si parla anche di molto in là purtroppo. E stiamo capendo quali sono le attività che vanno ripensate, come per esempio la parte letteraria, partirà una newsletter adesso, cosa che non c'era prima. La nostra libreria non ha un pubblico in questo momento, quindi non può avere niente, nessun introito in nessun modo, quindi l'unica cosa che ci interessa è portare avanti un discorso culturale. E poi stiamo capendo invece proprio strutturalmente che cosa saremo, stiamo guardandoci in giro sui bandi innovativi che usciranno. Eccoci di nuovo online, grazie mille anche a Carolina di averci raccontato l'esperienza del Circolo Arci Gagarin. Sì, e di aver anche appunto messo in luce un altro ulteriore aspetto, che poi la diversità insomma anche di contesti e non solo di condizioni materiali, per cui avere uno spazio con delle persone, per esempio assunte, è ancora diverso che essere per esempio precarie o autrici indipendenti, ecco. Ma assolutamente, e secondo me sottolinea anche quello che un po' diceva Sara prima, quindi Kate, live show for live audience, e ci sono delle iniziative o degli spazi che sono stati aperti per essere effettivamente vissuti, e fa notare anche come possono cambiare gli strumenti che si mettono in campo, perché ormai da settimane tutti quanti siamo in call, video call, eccetera, però anche il crowdfunding è un altro strumento. Sì, ora potremmo, se se siete d'accordo, mandare il contributo di Chiara Zanini. Io sono contenta che lei abbia deciso di mandare un suo contributo, un po' perché ci racconterà il lavoro che sta facendo di mappatura e di ricerca sulla condizione del precariato nel mondo dell'arte e della cultura, un po' perché noi abbiamo saccheggiato, e ora lo ammettiamo, non so se lei ci ha ascoltato le puntate prima e lo sa già, tra le risorse che lei ha condiviso nella nostra rubrica che oggi non abbiamo citato perché abbiamo già un elenco di rubriche infinite, che è quella condividere risorse gratuite online. E lei ha fatto tra le varie cose questa cosa molto bella di raccogliere un po' di materiali, link di festival che avevano deciso di condividere gratuitamente. Film e produzioni anche indipendenti, e noi abbiamo utilizzato alcune delle sue fonti per le puntate precedenti per appunto condividerle anche con voi. Oggi l'ascoltiamo un pochino in altra veste, in cui come persona che è molto dentro il mondo dell'arte e della cultura, Chiara è una critica cinematografica, ci racconta un po' il lavoro di ricerca che ha fatto in questo contesto. Ciao pirate, sono Chiara Zanini, sono una critica cinematografica e operatrice culturale, in questo momento in cassa integrazione. Vi aggiorno su cosa sta succedendo nel mondo dello spettacolo. Come sapete, teatri, cinema e altri esercizi, luoghi di aggregazione hanno chiuso il 23 febbraio. Sono ferme anche le produzioni, dato che le prove, le riprese richiedono contatto fisico, quindi una delle poche cose che si possono fare è scrivere. Gli autori scrivono opere che non si sa quando potranno prendere forma e i critici, perdonatemi se sto usando il plurale maschile, ma voglio sottolineare come questo sia un ambiente piuttosto maschile. I critici, dicevo, non potendo scrivere recensioni perché i film non escono, dovrebbero almeno, secondo me, scrivere della situazione dei lavoratori, delle lavoratrici, ma siamo veramente pochissimi a farlo. Perciò approfitto per darvi qualche dato del livello di tensione che c'è nel settore. Per quanto riguarda gli attori, ad esempio, a loro non vengono quasi mai pagati i giorni dedicati alle prove, quindi molti non hanno ancora accumulato un numero sufficiente di giorni per poter ricevere uno degli ammortizzatori sociali che sono stati previsti dal decreto cura. Questo decreto inizialmente non prevedeva assolutamente niente per i lavoratori intermittenti e le partite IVA. Ma poi è montata la protesta e adesso viene consigliato di chiedere il bonus di 600 euro oppure un fondo di ultima istanza. Comunque la richiesta potrebbe essere rigettata, però ci viene consigliato comunque di farlo. C'è la speranza che venga varato il famoso reddito di emergenza, ma anche se questa è una misura necessaria, più militanti tra noi sostengono che si debba lottare soprattutto per una riforma dell'intero comparto. Per fare un altro esempio, la CGIL e la Fondazione di Vittorio hanno concluso qualche tempo fa un'indagine in cui emergeva che soprattutto nell'ambito della musica sono quasi il 40% i lavoratori che ricorrono al lavoro nero. E la preoccupazione che adesso condivido anche con altri, è che appena torneremo ad avere gli eventi ci sarà una tale fame che pur di lavorare molti accetteranno delle paghe più basse. In questo modo finirà che tutti saranno pagati meno. Attualmente c'è una campagna che si chiama Nessuno Escluso, che ha come testimonial molti cantanti famosi, ad esempio Manuela Agnelli, Cristina Donà, Frankie Hi-Energy, Manarino e Daniele Silvestri, che ci stanno aiutando a dire che a realizzare gli eventi siamo tantissimi, spesso invisibili, soprattutto i tecnici e le maestranze, e che appunto nessuno deve essere escluso dai provvedimenti del governo che finora sono stati insufficienti. Poi ci sono la SIAE e le collecting di artisti che hanno creato dei propri fondi, perché è emerso che molti lavoratori non ce la fanno, sono veramente indigenti e quindi si sono organizzate, diciamo, spontaneamente. Vi do ancora qualche dato che include i lavoratori e le lavoratrici dei beni culturali e dei dati che sono stati raccolti dal gruppo Mi Riconosci tramite un questionario. Allora, dall'inizio dell'epidemia, metà degli intervistati ha subito l'interruzione di ogni attività lavorativa e quindi l'azzeramento totale delle entrate. Il 30% degli interpellati sa di non poter resistere in questa condizione più di un mese, mentre altri riconoscono che ci riusciranno solo grazie all'aiuto insostituibile della famiglia. Che cosa servirebbe in sostanza? L'estensione degli ammortizzatori sociali da subito, ma anche più vincoli alle imprese, tutele contrattuali per i lavoratori. Sgravi fiscali, alle imprese del settore e investimenti pubblici. Ci sono naturalmente richieste condivise con lavoratori e lavoratrici di altri ambiti, quindi la sospensione del mutuo o del pagamento dell'affitto, un'entrata per gli stagionali per chi è in ritenuta d'acconto. O un maggiore finanziamento, questo sarebbe molto importante, nella prossima legge finanziaria di quello che è il FUS, il Fondo Unico per lo Spettacolo, che viene finora gestito attraverso favoritismi clientelari e succede anche che chi prende questi soldi, cioè i teatri soprattutto, poi non rispetti nemmeno i contratti dei lavoratori. So che all'ascolto ci sono precarie e precari di tutti gli ambiti, ma tenete conto che questo settore sarà proprio l'ultimo a riprendersi. Perciò se lavorate nel settore, conoscete qualcuna, qualcuno che ci lavora, vi invito a partecipare a un gruppo che si è formato da pochissimo e sta operando attraverso dei tavoli di lavoro virtuali che funzionano molto bene. Il gruppo si chiama Emergenza continua, due punti per la tutela dei professionisti dello spettacolo. Lo trovate su Facebook. È nato da un'idea di ADL Cobas di Parma. E una volta entrati nel gruppo, arrivano le istruzioni per la mailing list e le chiamate su Zoom. C'è anche un gruppo lombardo che ha organizzato una diretta con l'assessore Filippo Del Corno e ne sta organizzando altre. Io ho intervistato l'assessore oggi per Art Tribune. E c'è anche un gruppo di professionisti dell'arte che tra l'altro ha appena pubblicato un appello e lo trovate al link sosnoprofitcultura.info. Vi saluto, grazie, a presto. Meglio questo secondo pattern, vero? Va bene così, va bene lo stesso. Che rumore fanno i sogni? Quando cadono per terra e si fanno male. Hai detto di sì, poi mi hai detto basta. Hai buttato a noi la pasta. So che è primavera, ma io no. Sorriderò se si parlerà di te e ti scriverò solo dopo qualche mese e dopo tantissimo tempo. Il tuo nome sullo sentirmi un po' da sola, che sentirmi sola adesso qui davanti a te, a questo tavolo improbabile, vuoto di caffè. Sorriderò se mi parlerai di te e ti scriverò grazie del caffè e dopo tantissimo. Ciao Pirate di nuovo. Arianna mi chiedeva di parlare di come il pubblico sta vivendo questa particolare situazione del grande consumo culturale che stiamo avendo e qualche consiglio per le visioni. Secondo me è un buon momento per scoprire che non esistono solo Netflix o le altre piattaforme mainstream. Ad esempio, nel mio Linktree ho messo decine di film gratuiti che sono ad esposizione adesso su Vimeo o su YouTube, perché varie realtà, soprattutto i festival italiani, i festival, hanno chiesto ai registi di mettere online un proprio film e molti hanno accettato. Soprattutto se vi piacciono i documentari, c'è molta scelta. Consiglio in particolare il sito OpenDBB e le pagine Facebook dei vari festival, che caricano sempre nuovi contenuti e film d'autore. C'è molto anche su YouTube, ad esempio ho scoperto che c'è La donna nella resistenza di Liliana Cavani, e poi va detto che anche Rai Play ha dei bellissimi titoli. La Rai purtroppo sta facendo schifo sui suoi canali, oltretutto c'è un mansplaining senza precedenti, ma i film su Rai Play valgono veramente la pena. Io la condivisione di questi contenuti, parlo dei contenuti gratuiti messi in streaming, l'ho trovata subito molto bella e utile in una prima fase, però la cultura non deve essere solo qualcosa che ci riempie le giornate nel modo più facile possibile, cioè con un click e una visione passiva. Al contrario, il confronto è sempre importante e spesso è anche necessaria l'intermediazione di una persona preparata. In questi giorni si è parlato della possibilità di creare dei drive-in, per esempio, per poter andare in qualche modo al cinema nei mesi estivi. Secondo me la cultura dovrebbe essere fruita in modo attivo, consapevole, e su questo aspetto c'è da lavorare moltissimo per migliorare. Dobbiamo ripensare tutto, compresa la fruizione e l'accessibilità dell'informazione, così come della cultura. I problemi della didattica online lo spiegano bene, il tipo di lavoro che c'è da fare. Io spero che, tenendo conto che questa epidemia ci renderà tutti più poveri, i nostri luoghi di aggregazione si impegnino non solo con azioni politiche, ma anche per quanto riguarda la dimensione culturale, affinché la cultura non muoia. I privati non vedono l'ora di approfittare della situazione, ma noi dobbiamo tenerci stretti almeno i nostri spazi di elaborazione. Questo è quello che penso. Grazie, grazie e viva le radio di Radio Virus. A presto. E eccoci tornate in diretta. Grazie infinite a Chiara, Davvero. per la precisione, la ricchezza, la condivisione della sua ricerca, delle sue riflessioni e davvero grazie mille. E grazie anche, oltre che a Chiara, che è stata fantastica, anche ad Angelica che ci ha passato direttamente la canzone che abbiamo mandato, che si intitola Beviamoci, che ci Bellissima. ricorda tutti quelli e tutte quelle e quello che ti scrivono: dai, beviamoci un caffè come amici. E la cosa più bella è: dopo di me non ti è successo niente. Quindi avercela questa autostima, bellissimo, Grazie mille penso. Angelica. Veramente. E tornando anche al contributo di Chiara, uno dei mille fili che Chiara ha intrecciato attorno al tema della trasmissione, ma anche molto oltre, ce lo dicevamo anche con Federica e Carlotta, è anche interessante che Chiara ha messo in luce anche l'omogeneità dello sguardo maschile, che spesso è quello fornito dalla critica cinematografica, per esempio, ma non solo. E il lavoro che Chiara ha fatto, per esempio, di raccolta di contributi che è possibile vedere online gratuitamente, in parte appunto cerca di sfidare questo sguardo maschile portando le registe, port dando visibilità alle registe donne, e per cui suggerisco di andare anche a guardare il link che ha dato Chiara anche per questo motivo. Sì, poi ha toccato anche un tema che ci è caro, che è quello del reddito, che per noi la prima richiesta è il reddito di autodeterminazione, ma perché no, un reddito universale, ma comunque un reddito, e quindi ci troviamo d'accordo con dateci i soldi. Vogliamo i soldi. Vogliamo i soldi e non lavorare. Cioè, volevo aggiungere questo piccolo nota. È anche venerdì, comunque. E in questo momento di consapevolezza del tempo, che a volte invece ci sfugge in questo periodo, potremmo lanciare un'altra canzone e a seguire certo. un contributo. E perfetto. Vado? Vai, vai. Ci vuol passione, molta pazienza, sciroppo di lampone e un filo d'incoscienza. Ci vuol farina del proprio sacco, sensualità latina e un minimo distacco. Si fa così, rossetto e cioccolato, che non mangiarli sarebbe un peccato. Si fa così, si cuoce a fuoco lento, mescolando con sentimento. Buonasera a tutte e tutto, siamo in compagnia di Fortunato Disco, illustratrice che ha lavorato per il Telegraph, il Sun, Wired UK e tanti altri, ed è anche la direttrice artistica, nonché presidentessa o presidenta, come si preferisce, di Paciugo, la mostra mercato milanese di illustrazione che si svolge a ottobre, ma è soprattutto una nostra amica. Ciao Fortu! Ciao Fede! Allora, ti abbiamo invitata qui a parlare perché questa puntata è sulle lavoratrici, lavoratori dell'arte e della cultura e volevamo chiederti, farti un paio di domande. Partiamo? Partiamo. Allora, quali sono le difficoltà sia personali sia della scena di cui fai parte? Difficoltà relative ovviamente a questo momento emergenziale sanitario. Ovviamente rispetto al mio lavoro. Sì. Ok. Ma anche allora, personali. Puoi dirci anche qualcosa sì, di è, te è se che, vuoi. È che si sovrappongono. No, è che si sovrappongono secondo me. Nel senso che i lavori creativi attingono soprattutto dall'esperienza, da quello che ci circonda, da quello che vediamo, dalle cose che facciamo. Posso dire forse un po' di più rispetto a delle altre tipologie di impieghi, è il fatto di non poter uscire di casa, non poter vedere niente, non incontrare le persone è piuttosto limitante, nel senso che all'inizio c'è tutta una foga di vedere film, documentari, libri che non hai potuto leggere, è tutta una serie di azioni attive però allo stesso tempo un po' passive e quindi insomma c'è del fermento e poi invece io mi sono resa conto che dopo un po' di giorni non so più che dire, nel senso che penso a che cosa posso fare, penso a fare dei progetti personali perché adesso comunque serve un momento abbastanza tranquillo per dedicarmici e invece mi rendo conto che ho tipo l'elettroencefalogramma un po' piatto, ma sento che effettivamente perché mi mancano degli stimoli e non posso confrontarmi con le persone, non posso attingerli dall'esterno e tutta una serie di problemi che mi derivano dalla reclusione in casa. Allo stesso tempo c'è comunque la preoccupazione della precarietà del lavoro, che nel caso degli illustratori che quasi sempre sono freelance è un po' alta, ossia i disegnatori di solito si dividono in freelance, che quasi sempre sono illustratori, e i fumettisti che quasi sempre invece lavorano con il diritto d'autore, non con la partita IVA. Quindi diciamo che sono due categorie pochissimo protette in questo momento. E un sacco di lavori si sono fermati, insomma c'è da capire un po' come impostare le cose d'ora in poi, non dopo la pandemia, cioè dopo la quarantena, da adesso in poi, perché oggettivamente non sappiamo quando questo momento finirà e quindi penso non valga tanto la pena aspettare che finisca prima di capire che cosa vogliamo, cosa possiamo fare o comunque come possiamo farlo. Assolutamente, poi hai toccato un tema che abbiamo toccato anche nelle puntate precedenti, ossia questa cosa per cui un po' abbiamo il senso di colpa e ci sentiamo in obbligo di fare cose adesso, perché adesso... Assolutamente sì, assolutamente sì, perché siamo bombardati da mille input, adesso alzerò una polemica, piccola, però nel caso proprio dei disegnatori si sta sfruttando molto il mestiere in questo momento per beneficenza, per non beneficenza, per immagine, per cavalcare l'onda comunicativa di questa emergenza, per tutta una serie di cose, come se il mestiere dell'illustratore in quanto legato a un ambito artistico non fosse riconosciuto come un vero e proprio mestiere, ma quanto come una, come dire, una un'eccezionalità da mettere a disposizione della collettività. E questo in generale può essere anche vero, ma è vero anche che quella dei liberi professionisti o comunque dei lavoratori precari, di chi lavora a diritto d'autore, tra l'altro in dei settori che sono già stressati di loro ancora prima che arrivasse il coronavirus, cioè siamo una delle categorie da tutelare in questo momento. Non è facile per noi metterci a disposizione, cioè lo si fa certamente, però c'è un limite per cui non si capisce più se cercano di sfruttarti oppure cercano di fare qualcosa di bello per la comunità. Voto la prima. Perché ci sono tipo, ci sono state delle pubblicazioni, per esempio, che hanno utilizzato molti illustratori che avevano già collaborato magari con le testate, eccetera, non pagandoli, facendo dei numeri speciali sull'emergenza Covid, perché? Cioè, nel senso, non è un progetto non è un progetto che poi è finalizzato a raccogliere fondi e donazioni. Perché un illustratore dovrebbe lavorare gratis per un giornale che poi viene venduto? Assolutamente, non ha alcun senso. E quindi è un momento un po' strano, si permettono tutti di chiedere cose, non lo so, un po' strano, bisogna un po' difendersi. Beh, quello purtroppo dobbiamo farlo sempre, il problema resta sempre a monte, sì, delle persone che vogliono approfittarsi di noi. E invece un'altra cosa che volevamo chiederti è quali forme di organizzazione o gestione di questo momento vi siete dati, per esempio con il gruppo di Paciugo o in generale tra altri illustratori? Allora, in verità ci stiamo un po' pensando, cioè ci stiamo confrontando fra di noi, perché è tutto ancora fumoso, nel senso, è vero che sono passati quasi 2 mesi, più o meno, però è anche vero che è stato un po' un galleggiare finora. Con Paciugo, proprio per questo, siccome ovviamente avremmo dovuto già essere al lavoro per la prossima edizione, ma non sappiamo come gli eventi verranno gestiti proprio a livello pratico nel prossimo futuro, ma proprio per una questione di responsabilità sociale, non per altro, probabilmente cercheremo di fare dei progetti che siano vicini alle categorie a cui noi parliamo e che ci parlano, e quindi ci piacerebbe approfondire esattamente i problemi dei lavoratori autonomi nell'ambito dell'arte, magari fare delle tavole rotonde fra professionisti proprio per cercare di darci del supporto l'uno all'altro, oltre che creare un piccolo esercito di illustratori che riescono a esercitare i propri diritti e non a elemosinare ogni volta un pagamento, soprattutto in questo momento che è piuttosto difficile. Beh, avete del lavoro da fare, sì. Beh, quando avrete una risposta anche all'organizzazione e alla gestione, sicuramente vi risentiremo. Intanto io ti ringrazio tantissimo per questa intervista e speriamo di vederci presto per una birretta non solo virtuale. Sì, esatto, sarebbe molto bello. Nel frattempo, ciao a tutte e tutto. Ciao Fortuna, grazie mille. Ciao, buona giornata. Ciao. Ed eccoci tornato in diretta e grazie mille anche a Fortuna, grazie del contributo che finisce appunto raccogliendo anche uno degli stimoli di Chiara, della necessità di costruire dei tavoli di discussione, di politicizzare la situazione, di monitorare cosa sta succedendo a livello lavorativo rispetto allo sfruttamento dei lavoratori, ma anche delle cose prodotte dalle lavoratrici e dai lavoratori, e quindi in qualche modo grazie anche di questo sguardo interno soggettivo della propria narrazione a fortuna. E prima di lasciare la parola a Fede e Carlotta, volevo ringraziare Carlotta per la scelta della canzone precedente di Ornella Vanoni. Comunque vorrei dire che con questa scelta dimostro la mia essere sul pezzo sulla scena musicale contemporanea. Ti posso dire che abbiamo Moltissimo. ricevuto commenti molto positivi, quindi in realtà intercetti dei desideri. Bene, bene, intercetto così. Evidentemente una fascia di ascoltatrici e ascoltatori che si sente esclusa dalle scelte più ragionate, più sofisticate che abbiamo portato avanti. Non ti chiederò di canticchiarla perché eri stata meravigliosa, però quello quando te la sentirai tu. Mi preparo, mi preparo. Aspetterò con piacere. Ma direi che, se non erro, abbiamo altri due contributi a proposito di arte e sono delle creazioni dadaiste. Ah, ok, allora anticipiamo le Corretto. creazioni dadaiste, è corretto, facciamo un piccolo cambio di programma, ma io metterò in luce la mia abilità acquisita sul campo e Mamma mia, esattamente. Arianna, sei diventata troppo brava. Noi ti facciamo i bocchetti e tu non fai niente. Esatto. Ah, malefiche, era una prova. E allora, come diceva Fede, lanciamo questi due contributi, se sei d'accordo, Fede, che li stanno introducendo. Assolutamente. L'incontro con Dada Lupe è avvenuto, forse non a caso, durante una manifestazione di coordinamento migranti nella piazza centrale di Bologna. Da lì abbiamo fatto una prova con un collettivo di improvvisazione che si ritrova settimanalmente negli spazi della realtà autogestita della BA. Dopodiché, di lì a poco è scoppiato il coronavirus. Intanto però nascevano i tavoli dell'ex caserma Sani, luogo dell'ultima occupazione XM24, e quanto segue si inserisce nei progetti del tavolo Arte, uno dei tavoli di questi bellissimi incontri di partecipazione dal basso. L'impossibilità di vedersi ha fatto quindi sì che dall'improvvisazione si passasse alla composizione, sfida arricchente e nuova, dato che con la Dada ci conoscevamo appena. I pezzi sono circadiani, nel senso che nascono la mattina e si completano la sera in un mix di composizione estemporanea ed editing artigianale, usando solo software liberi come Audacity e Hydrogen. Dada registra le voci di testi per lo più autoprodotti e io provo a creare un paesaggio sonoro consono. Nasce così il progetto Etra, ennesimi tempi rivoluzionari artistici, che prova a fondere musica e poesia. Abbiamo avuto la possibilità di passare già in Radio Tsunami e Radio Spore. E siamo contenti che il nostro operato si manifesti anche in radio, nulla di meno. Il lavoro culturale in quarantena? Beh, per noi che non siamo propriamente lavoratori dello spettacolo, perché per mantenerci nella vita facciamo altro, paradossalmente questa situazione di prigionia forzata è stata un'opportunità, come già ha spiegato Leandro. I nostri pezzi conservano la loro valenza in stretta relazione con il momento storico in cui nascono. Siamo situazionisti, svincolati dal loro contesto, i pezzi perdono la loro pregnanza, che per noi è principalmente politica. Abbiamo quindi sentito l'esigenza di esprimere i sentimenti contrastanti che questo momento storico ha provocato in noi. Etra lavora per la rivoluzione culturale, per una società antirazzista, anticapitalista, ecologista, emotiva e libera. Se siamo artisti, allora siamo artisti al servizio del popolo che abita i nostri contesti, e in questo ci sentiamo un po' Dada, anche se non siamo affatto nichilisti. Infatti, stiamo cercando di restituire all'arte il suo valore mitopoietico. In questo tentativo c'è davvero molta più politica di quello che può sembrare. La nostra società utilizza il linguaggio artistico, musica, cinema, pubblicità allo scopo di influenzare le masse e indirizzarne i desideri. Vengono finanziati con i soldi pubblici prodotti che rispettano le direttive culturali individuate dai politici di turno. Questo per noi non va bene. L'arte mainstream asseconda il sistema. Noi disturbiamo il sistema. Il nostro modo di reagire è sì, di nuovo, propaganda, affinché non venga meno la controffensiva, ma una propaganda da basso. L'attività mitopoietica è altamente rivoluzionaria, significa creazione di miti, linguaggi, trame, immagini che rappresentano le società che le producono. Se siamo tutti d'accordo che la società deve cambiare, allora anche l'arte deve cambiare. Siamo vicini al dadaismo anche perché siamo il prodotto di un collettivo di artisti più ampio che ci sostiene e alimenta e perché non riteniamo che i miti e i valori possano essere uguali per tutti. È perciò necessario che ogni identità si dimostri e che si esprima al fine di garantirsi la propria rappresentanza mitica, importantissima per la produzione e riproduzione identitaria. Se il mainstream lavora per l'omologazione, noi lavoriamo per la diversificazione. Stilisticamente prediligiamo l'espressione piuttosto che la forma e ci impegniamo a restituire all'errore il suo diritto di esistere. Siamo contro il professionismo artistico, sempre al top delle prestazioni, sempre produttivo. Non si può chiedere all'ispirazione di essere onnipresente, si tratta di qualcosa che va e viene. Lavoriamo in gruppo attraverso la GEM, amplificando la nostra capacità di ascolto e con il forte obiettivo di contenere il narcisismo implicito nell'io artista. I nostri prodotti vogliono essere inquietanti, scandalosi, rivoluzionari e quindi non siamo qui per assecondare il pubblico, quanto piuttosto per disturbarlo. Ci risulta difficile pensare che questi prodotti possano uscire dal circuito indipendente che li ha generati, per questo chiediamo a tutti quegli spazi, reali o virtuali, che ci sono affini, di sostenerci. Presto partirà un crowdfunding e vi terremo aggiornati, perché per proseguire abbiamo bisogno di visibilità. Grazie, non una di meno. Diretta. Ci vuol passione, molta pazienza, un filo di lampone e un filo di incoscienza. Basta. Wow! Grazie, Charlie! Che emozione, grazie, Charlie! È un futuro come, come si può dire... tipa che fa le cover di Ornella Vanoni. È uno dei futuri possibili, ma perché no, Carlotta? Perché ma infatti, no? Ma infatti. Ed eccoci tornate in diretta. Se vi stavate chiedendo come reagiamo alle dirette, bene, benissimo. E ora che siamo tornate in diretta e ci avviamo in realtà un po' verso almeno la seconda... profonda seconda metà della puntata, che avevamo certo. Detto all'inizio, poi a un certo punto si caratterizzerà un po' di più per la sua natura punk. Beh, ma non che fino adesso, come dire. No, abbiamo raccolto degli elementi importanti della cultura punk fino ad ora, secondo me. Sì, sì, sì. No, adesso abbiamo ancora un contributo, in realtà. Sì. Che c'è? Di Ari, stavi dicendo? No, era superfluo, è tutto tuo la scena. No, volevo solo dire, appunto, ci arriva un ulteriore contributo che sempre ringraziamo, da Titta Cosetta Raccagni, che è un altro pezzo ancora di persone che lavorano appunto nell'arte e nella cultura. Lei si occupa di arte visiva e ci racconterà meglio di come faccio io il progetto Porno Poetica, e quindi possiamo vedere un'altra sfaccettatura di che cosa vuol dire questa quarantena. Grazie, buon ascolto anche di Titta. Ciao, sono Titta Cosetta Raccagni, o semplicemente Titta, e sono qua insieme alla mia compagna e socia di vita e creazione artistica, Barbara Stimoli. E dunque, volevamo riportare la nostra esperienza all'interno, insomma, di tutto questo dibattito su come gli artisti stanno pensando e stanno creando, insomma, o che senso ha in questo momento la creazione e la produzione artistica. Ma in realtà quello che mi ci piaceva riportare era il fatto che della nostra esperienza diretta, insomma, soprattutto perché in realtà ben prima dello scoppio della pandemia avevamo deciso che sembra un eufemismo, ma di isolarci, quindi di prenderci un periodo di vita lontano da Milano, città nella quale solitamente viviamo e lavoriamo, e di vivere in un piccolo paese in Toscana per dedicarci, per fermarci innanzitutto, per rallentare e per dedicarci più in profondità davvero alla ricerca e alla creazione. Quindi, come dire, una scelta in qualche modo che ha anticipato, quasi profetica, di che cosa avessimo bisogno e su cosa ci fosse bisogno di riflettere in questo momento storico. Chiaramente ora la pandemia accelera tutta una serie di ragionamenti e di processi che però probabilmente erano già giunti a un limite e a cui bisognava in qualche modo porre innanzitutto pensiero. Quindi più che produzione artistica innanzitutto serviva e serve una produzione di pensiero. Nello specifico noi, la nostra ricerca che si chiama Porno Poetica, nello specifico siamo venute qua a lavorare su una parte di Porno Poetica che si chiama Pleasure Rocks e che indaga quindi il piacere in una direzione che si discosti completamente sia ovviamente dal piacere legato al consumo ma anche dal piacere edonistico, e che ragiona sul piacere in quanto esseri viventi inseriti in un contesto di altri viventi, e quindi di un piacere innanzitutto relazionale con l'altro, con gli altri esseri, che siano umani, non umani, animali, vegetali e minerali, dato che in Pleasure Rocks lavoriamo con i corpi e con le pietre. E tutto questo per dire che il piacere, così come la cura e l'empatia, che stiamo scoprendo essere in questo momento fondamentali, sono i cardini di un nuovo possibile stare al mondo, anzi di un nuovo possibile, di un nuovo necessario stare al mondo, che non può essere diviso dal pensiero e dalla creazione artistica. Ed eccoci, bentornato in diretta, grazie infinite anche a Barbara e Titta di questo sguardo inoltre su cosa vuol dire, anche qual è la dimensione della creatività in questo momento. Anche l'intervento prima lo recuperava, c'è una tensione tra la produttività e la creatività che insomma non pensiamo di risolvere oggi noi con le narrazioni, ma sicuramente le narrazioni di oggi in qualche modo la esplicitano, questa tensione tra produttività e creatività, composizioni molto diverse abbiamo sentito rispetto appunto al mondo dell'arte. Su questo volevo ringraziare Atena, che speriamo di coinvolgere anche per la prossima puntata in cui parleremo di questi temi, che già aveva introdotto questa questione qualche puntata fa, quando in più ci aveva raccontato di come aveva costruito la splendida playlist che poi ci aveva regalato. Esattamente. E a proposito di playlist, quando diciamo playlist fa ding dong. È tipo il momento quasi di salutarci e di, come sapete, di solito ci salutiamo con una playlist regalata, condivisa da artiste, artistu e artisti. E anche oggi finirà così, perché ci piace in qualche modo che avere queste contaminazioni e queste condivisioni. La playlist di oggi, prima che poi facciamo tutti i saluti e ci salutiamo, anticipiamo che è regalata e condivisa da Occult Punk Gang. Esatto. È stata scelta perché, oltre a essere molto figa e essere un'ottima introduzione al weekend che ci aspetta, che sarà punk anch'esso, quindi Decisamente, decisamente punk. Il punk ha molto, quantomeno a me, da insegnare su come affrontare queste settimane di quarantena, non so voi. Sì, moltissimo. E come poi ci racconteranno i membri del collettivo, questa playlist che mandiamo oggi è anche servita a finanziare le brigate volontarie di emergenza. Sì, di cui abbiamo parlato, potete recuperare il podcast. Esattamente, e quindi ci piaceva avere loro presenti con questa bella iniziativa che poi ci racconteranno meglio. Se... Grazie anche a loro. Grazie infinite, davvero. Grazie alla Huckle Punk Esattamente, che io trovo difficilissimo dire, sono Gang. l'unica. Anch'io, infatti, non È lo so molto se avete notato, difficile, l'ho lasciato è dire a molto voi. difficile. Che ci siamo impappinate con eleganza per playlist, bello. Esatto. Va bene, dunque, se siete d'accordo possiamo salutarci. Sì, ci risentiamo lunedì con la radio. Esatto, e ora in realtà vi lasciamo col Occult Punk Gang che ci racconterà del loro progetto e ci introdurrà la playlist. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao a tutte e tutti, sono Francesco di Occult Punk Gang. Saluto in primis le ragazze di Ambrosia che vogliamo ringraziare collettivamente per averci dato la disponibilità di questo intervento sulle frequenze radio di Non Una di Meno. Come nasce Occult Punk Gang? Occult Punk Gang nasce da un gruppo di amici nel 2015, sostanzialmente andavamo ai concerti punk e un giorno ci siamo detti: ma perché non iniziamo anche noi a organizzare concerti? Ed è così che tra chi aveva competenze grafiche e chi invece suonava magari con i propri amici, abbiamo iniziato a organizzare i primi concerti. Nel tempo siamo cresciuti come gruppo e come collettivo e siamo arrivati l'anno scorso a organizzare la terza edizione di un festival che si chiama Allucinazione Metropolitana. Abbiamo fatto varie pubblicazioni di tape autoprodotte sul nostro Bandcamp. E quel che ci ha sempre mosso è però la modalità in con cui facevamo queste cose in maniera totalmente auto-organizzata e spesso andando a supportare quelle realtà e quelle situazioni che più c'erano affine. Da questo nasce anche l'idea di Vivi nel 2020, la compilation che abbiamo pubblicato recentemente, con cui siamo riusciti a raccogliere 1000 euro benefit per le brigate volontarie per l'emergenza. La compilation è composta da 17 brani che arrivano da 17 band diverse dell'ambiente punk meneghino. E niente, a un certo punto ci siamo trovati chiusi in questo lockdown all'interno di questa città spettrale che è la Milano deserta e ci siamo detti come possiamo renderci utili ora che purtroppo i nostri concerti non li possiamo fare. E abbiamo detto facciamo questa compilation, facciamo la benefit per le brigate in cui ci riconosciamo nel loro operato e che per questo supportiamo, ed è così che abbiamo fatto questa compilation ed è andata effettivamente molto bene. Un saluto ancora a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici e speriamo. Yeah. cercai di sconfiggerla, non provare a consolarla. Aspetterò fino a quando tutto ciò che sul suo cammino non sarà distrutto. È inarrestabile ed è una parte di me. Abbastanza felice, abbastanza tranquilla, abbastanza viva per non poter essere morta. Non ascolta mai queste parole, non ha tempo da perdere con certe cose, certe persone. È tutto l'amore e la comprensione, ci sono stati negati, la forza del dolore che ci hanno accompagnato tutti questi anni, tutte le cose che volevamo essere e che non saremo mai, perché non abbiamo letto le cose che abbiamo dimenticato per permetterci di andare avanti. Yeah. We'll be right back. sogno presto te stesso. Mi figlio sopperire quando ti dico di ginocchiarti, quando ti dico che sei giusto e che hai sbagliato. Smetti di avere fiducia nelle loro parole, smetti di avere fiducia nel loro sistema. Non credi ai loro promesse, devi uscire dal loro futuro. Trova la forza per vivere senza aspettare. Spezza le catene che ti tieni allegato. Non smettere di ribellarti, non smettere di ribellarti. Parte del sistema sarebbe un sistema criminale.